Il mondo è la dimora della vita che sovviene ancora ora dopo ora. Chi se la divora con false concezioni di progresso merita di andarsene in manora da adesso. Non cogli il nesso tra la tecnologia e la tecnocrazia. Dai, non è complesso, è che t'han fatto fesso da quando ti sei perso su sta via. Il lavoro, la tipa, la casa, le rate. Se sei depresso, poche scuse, sei imbrigliato da catene ben tirate, tenute e mantenute dai poteri forti, ma con le voci mute, miliardi di cazzate da acquistare a tonnellate, in varietà variegate, fonti di felicità, in realtà son prigioni camuffate. Altri giri di vite su queste vite già bloccate. Non aver paura di urlare quello che pensi, non aver timore di dare più spazio ai sensi, non aver paura altrimenti ti accontenti di vivere una vita vissuta con gli occhi spenti. Non aver paura di urlare quello che pensi, non aver timore di dare più spazio ai sensi, non aver paura altrimenti ti accontenti di vivere una vita vissuta con gli occhi spenti. Loro vorrebbero vederci imbambolati come bambole di pezza con i volti lucidati, vestiti di capi firmati con sorrisi prestampati, che nemmeno il cavaliere quando trompi appare in tele legge i dati dell'eroe che gesta dei suoi cazzo di soldati. Ma noi siamo dannati, puntiamo a destabilizzare un mondo insano, pieno di nervi tesi, depressioni acute, volti offesi e poi sorrisi sgargianti di volti imparesi. Noi non offriamo soluzioni come maghi della tele, santoni, imbroglioni, pseudo religioni, antirughe new age e new age pubblicazioni. Lo yoga pratico, in 10 comode lezioni. Noi non offriamo soluzioni, ma intanto ci siamo e ci teniamo al contatto con la vita e le emozioni. Non aver paura di urlare quello che pensi, non aver timore di dare più spazio ai sensi, non aver paura altrimenti ti accontenti di vivere una vita vissuta con gli occhi spenti. Non aver paura di urlare quello che pensi, non aver timore di dare più spazio ai sensi, non aver paura altrimenti ti accontenti di vivere una vita vissuta con gli occhi spenti. Milioni di persone soffocate, sedotte, abbandonate dai tempi dell'infanzia con vetrine preparate a catturare l'attenzione dell'occhiate, sognanti inconsapevoli di vite appena nate. Milioni di persone soffocate, truffate, imprigionate con l'educazione in direzione di creazione di pedine in posizione per servire la nazione. E poi l'entrata nel mondo del lavoro, ma il frutto del lavoro resta a loro. A noi pagano ore dicendo che il tempo è denaro, non si accorgono che noi in silenzio resistiamo. La vita vera è dentro di noi la conserviamo senza data di scadenza, perché non è un prodotto che può essere esposto su una credenza. E con pazienza attendiamo l'orario per dare giri di vita al contrario. Non aver paura di urlare quello che pensi, non aver timore di dare più spazio ai sensi, non aver paura altrimenti ti accontenti di vivere una vita vissuta con gli occhi spenti. Non aver paura di urlare quello che pensi, non aver timore di dare più spazio ai sensi, non aver paura altrimenti ti accontenti di vivere una vita vissuta con gli occhi spenti. Why am? Why am? Why am?